Il Thank you. bastonarmi in mia presenza, ma attraverso mi spinge e scappa via. Entrando il tuffo, tutto svelasti al passo. Da là fino alla zeppa io gliel'ho detta. E degli! Sbuffa e medita vendetta su Don Gerardo. No, degli! Torquato cerca il segreto me l'invia, ma taci intendi? Capisco quel che vuole, sono un di mondo. non terran congiurati ingegno e ira. Gelosi, infidi, fili, che odiate il gran poeta, ecco il più rio, Roberto. All'antica amistà torno torquato. La duchessa in volea e negarmi ipopea un amplesso implorato. E fra queste aure si liete ancor son ingongeme. Nel vostro sveglio in pene e la sabbia presso l'onde cadenti per insegnare all'eco i suoi lamenti. Dal volente Torquato, spettator vieni. Ora un previsto scoglio mi dirà traditore, aprente il voglio. Thank you. Thank you. Oh!